Un bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti. Linus Bedroom. Sì, sono 98,6 per la bassa veronese e zone della Lessinia e 101,5 per Verona città e rimanente provincia. 91,5 per la zona Lago di Garda e 94,7 per la Val d'Adige. Radio RCS la potete anche ascoltare attraverso lo streaming sul sito internet www.radiorcs.it. Un salto dall'altra parte dell'oceano per arrivare in America e riscoprire alcune formazioni degli anni 70 dotate di grande creatività nel campo del rock duro. Prima canzone era del gruppo statunitense Heart, ancora oggi guidato dalle sorelle Wilson, e che abbiamo sentito dal disco The Little Queen del 1977 con il loro classico Barracuda. Dicevamo grande inventiva e capacità tecniche che la band ha saputo canalizzare all'epoca. Che ne pensate? Io vi dico solo che a Barracuda sono un campione. Il gioco Guitar Hero ho ben 5 stelle d'oro. Non aggiungo altro. L'hai conosciuto con quel giochino il pezzo. è vero, sono pezzi che fanno parte del background, oltre la verità è un mago a Guitar Hero, ma il fatto che fanno parte proprio del background musicale rock medio di un americano. Questo fa capire un po' la differenza anche tra l'America e la nostra situazione in Italia, cioè cosa è nel nostro DNA e che cosa invece hanno altri nei loro. Allora non toccarmi i baglioni. Memo Love Chronicles è il titolo del vostro disco, quale significato avete voluto dare a queste parole? Ma Memo Love Chronicles, diciamo che è il titolo dell'album, che è una specie di concept, diciamo una specie perché non abbiamo la pretesa degli Who o dei Pink Floyd, insomma, diciamo che la nostra è solamente una piccola storia di cornice. Memo perché è come i post-it lasciati, però è una cosa che bisogna scoprire ascoltando il disco, quindi potrebbe partire un grandissimo messaggio pubblicitario. Quindi andate a comprarlo. Quindi andate a comprare, così lo scoprite. No, al di là di questo, appunto, è una cosa che, ma sì, dare un filo conduttore ai pezzi che si possono tranquillamente ascoltare singolarmente, però dare una specie di storia è una cosa che ci interessava. Nel 1974 esce Man of Miracles, quarto lavoro degli Styx, la band di Dennis DeYoung e dei fratelli Panozzo, mescola l'hard rock e il prog, creando un sound unico che li caratterizzerà nel corso degli anni. Da quel disco il brano Rock and Roll Feeling. Riding high. La bellezza del suono degli Styx sta nel saper amalgamare tecnica strumentale ed intreccio di voci. Cosa ne dite? Sicuramente erano maestri dell'intreccio delle voci e abbinare appunto la tecnica al servizio del pezzo, che è una cosa che non tutti hanno. Spesso si fanno delle sbrodolate allucinanti, soprattutto se uno vuole fare anche del prog. Io digerisco il prog, diciamo, in piccole dose, perché ho bisogno un po' dei tempi, non strettamente radiofonici, però qualcosa che si compia, qualcosa di un po' più compiuto. Però per la tecnica vocale è una cosa che sicuramente non hanno inventato gli Styx, perché mi ricordo già dai... Tradizione americana. E per il rock, i primi che mi vengono in mente, a cui si è ispirato anche Freddie Mercury per i suoi Queen, i Beach Boys. Certo. C'è una cosa... Il concetto della voce non come strumento principale che si deve sentire a tutti i costi, altissimo, non per fare sempre quello che dà le mazzate in Italia, però sì. Insomma, ma come strumento amalgamato tra gli altri strumenti. Questa è credo la chiave vincente di certi sound. E tra le vostre esperienze musicali c'è anche una vostra visita musicale negli Stati Uniti. Raccontateci questa importante esperienza. Sono partito col nostro produttore Gabriele Rustichelli della Z Factory, che salutiamo perché insomma ci segue sempre con tanto affetto, e mi ha deportato. Io molto infelice io di andare a Los Angeles chiaramente, e siamo andati a presentare un po' appunto l'album di Elena, l'anteprima del video al NAMM, che è la fiera per musicisti, strumenti, e lì è davvero, ragazzi, è un altro mondo. È proprio un altro mondo. Sono trovato a parlare col cantante degli Alter Bridge, bassista degli Alice in Chains, diciamo non alla pari, perché non sarò mai alla pari loro, però insomma da musicista a musicista tranquillamente, perché è una fiera per addetti ai lavori e non per fan scatenati, anche se un po' il mio essere fan stava per prevalere e me ne sono accorto quando il bodyguard di Tommy Lee dei Motley Crue, un messicano di 2 metri, tatuato, tatuato in faccia, mi ha detto che forse era meglio se me ne andavo. Chiudiamo allora la seconda parte con i canadesi Triumph, formazione influenzata dai connazionali Rush. Si fa notare all'inizio per il tipico sound rock di quella terra, che mescola progressive ed hard rock melodico. Dal disco Rock and Roll Machine del 1978, il brano Bring It On Home, alla terza e quarta parte, ascolteremo 6 brani del disco di Linus Bedream, Memo Love Chronicles. Stay tuned. Shining in your eyes, I feel my temperature start to rise. Sweet lady, I got a surprise. You feel my love and down deep stay. It doesn't happen every day. Don't let it